Conto alla rovescia. L'Italia nello spazio. Buongiorno, buon anno e benvenuti a questo nostro ultimo appuntamento stagionale con gli aggiornamenti dal mondo dell'esplorazione spaziale. Oggi partiamo, è inevitabile direi, dal nostro Paolo Nespoli che comunica alla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale. Ora buon pomeriggio, è un piacere risentirvi e parlare in italiano finalmente. Il viaggio è andato bene, è andato molto bene, pensavo di soffrire nella Soyuz, è un pochettino piccola, dico sempre che è come il sedile posteriore di un'auto, ma in effetti una volta partiti siamo andati bene, è andato tutto bene. Senti, è cambiata molto la stazione da quando sei stato su l'ultima volta, che si vede di bello dalla cupola? Sì, la stazione è cambiata parecchio, noi abbiamo portato in orbita con l'STS 120 alla fine del 2007, abbiamo portato in orbita il nodo e con questo nodo ci sono potuti aggiungere il laboratorio Columbus dove sono adesso, il laboratorio giapponese che è di fronte a me, ma c'è anche il nodo 3 e la cupola, tra l'altro i pezzi fabbricati in Italia, quindi un grosso contributo dell'industria italiana. La stazione è quasi grande il doppio di com'era quando sono stato l'ultima volta, ci si perde quasi ogni tanto, perché girando tra i moduli non c'è l'alto in basso, ogni tanto si arriva di lato e non capisci più dove sei, ma c'è abbastanza spazio per fare tutto quello che devi fare senza nessun problema. Insomma, la missione è appena iniziata, Paolo Nespoli in gran forma, nell'intervista l'avete sentito, avete sentito una voce femminile, intervistatrice d'eccezione è quella di Simonetta Di Pippo, direttrice del volo umano per l'Agenzia Spaziale Europea. Ma vediamo le altre notizie. Due satelliti per le telecomunicazioni sono stati messi in orbita nel penultimo giorno dell'anno dal razzo europeo Ariane, ultima missione ovviamente per il 2010. Un nuovo conto alla rovescia è iniziato invece per Planck, il satellite europeo lanciato sempre da Kourou nel maggio del 2009. Dopo quasi un anno e mezzo di operazione, infatti il team internazionale di scienziati si sta preparando per un appuntamento importante. L'11 gennaio, quindi tra meno di 10 giorni, verranno resi pubblici i primi risultati scientifici della missione. Pronto anche il satellite Lares, pronto a lasciare la Terra con il lanciatore Vega nel terzo trimestre del 2011. Ancora una volta parliamo di Kourou, quindi Guyana francese. Il programma Lares, la cui realizzazione è affidata dall'Agenzia Spaziale Italiana alla Carlo Gavazzi Space, procede dunque a buon ritmo in parallelo alle fasi finali dello sviluppo del lanciatore. Ancora una notizia, nell'ottobre del 2008 un piccolo asteroide del diametro di circa 5 metri cadde sulla Terra bruciando a contatto con l'atmosfera. Una squadra di ricerca della NASA ha raccolto circa 600 frammenti del meteorite per un peso complessivo di meno di 10 kg e ha analizzato il materiale. Interessanti risultati, l'asteroide contiene 10 tipi diversi di meteoriti in realtà. In alcuni di esse sono stati individuati dei composti chimici, delle molecole organiche e anche degli aminoacidi considerati i mattoni fondamentali della vita. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Io direi di lasciarci ancora una volta con le parole di Paolo Nespoli, che lo ricordo fino a maggio sarà in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per una grande avventura di esplorazione e di ricerca. Intanto un saluto a tutti da Gigi Donelli. Ricordo, un saluto di nuovo a tutti, un abbraccio e noi siamo qua all'avamposto facendo cose per noi, per voi, per tutti noi e voi mi raccomando continuate sulla Terra nel modo migliore possibile. Buon 2011 a tutti. 3, 2, 1. We have ignition.